America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuto in America 24 da New York, Mario Platero. Seduta a Wall Street e finita ieri in rally, oggi parliamo di economia perché sarà uno dei temi determinanti anche per la campagna elettorale. Qui c'è una partita in gioco piuttosto delicata. La ripresa americana tiene e dunque ha avuto ragione Barack Obama con le sue scelte di politica economica, oppure comincia a indebolirsi, a incrinarsi, e dunque i repubblicani avranno molto spazio per poter cercare di proporre le loro soluzioni alternative a quelle del Partito Democratico. Intanto, dallo scampanellio della chiusura di Wall Street di oggi abbiamo avuto, come dire, un messaggio abbastanza positivo, rassicurante, non solo perché c'è stato un aumento dell'indice Dow Jones, l'aumento è stato dell'1,39%, un aumento abbastanza solido, 222 punti, siamo di nuovo al di sopra di quota 16.000, l'indice Dow Jones ieri ha chiuso a quota 16.196,41, lo stesso poi hanno fatto gli altri indici, S&P 500 è aumentato addirittura dell'1,65%, il Nasdaq addirittura del 2,27%. Ecco, vi segnalo questo andamento di borsa non tanto perché insomma c'è stato questo aumento, perché aumenti e diminuzioni simbolo della volatilità ne abbiamo avuti moltissimi nelle ultime settimane, ma perché ci sono alcune ragioni specifiche che lo determinano. Intanto sul fronte interno americano le vendite al dettaglio sono andate piuttosto bene nell'ultimo dato, il mercato ha digerito ieri mattina dopo la pausa di lunedì, perché come ricorderete era President's Day, quindi i mercati erano chiusi, questo elemento statistico sul dato economico che conferma che cosa? La tenuta dei consumi in America, ormai il 70% dell'economia americana è trainato dai consumi. Il tasso di disoccupazione è al di sotto del 5%, sono stati creati milioni di posti di lavoro, dunque la gente non guadagnerà moltissimo, la classe media è in difficoltà, ma porta comunque a casa uno stipendio con il quale riesce ad andare avanti e riesce a tenere in piedi i consumi, riesce dunque a tenere in piedi l'economia. Dunque il primo elemento è un fattore interno, ma ce n'è stato un altro esterno non di minore importanza, e cioè l'accordo che è stato raggiunto ieri tra Russia, Qatar, Arabia Saudita e Venezuela sul petrolio. Four major oil producers agree to freeze output at January levels. Ecco, qual è l'accordo? L'accordo è di mantenere la produzione di petrolio ai livelli dell'11 gennaio, quindi parliamo di oltre un mese fa. I quattro paesi, recita il comunicato diffuso dal Ministero dell'Energia russo, sono pronti a congelare la produzione di greggio ai livelli di gennaio se altri produttori di petrolio si associeranno a questa iniziativa. C'è stato un incontro a Doha, c'era il ministro dell'Energia russo, Alexander Novak, i rappresentanti di tre importanti nazione dell'OPEC, il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita Ali Al Naimi, il ministro dell'energia e dell'industria del Qatar Mohammed bin Saleh Al Sada e il ministro del petrolio del Venezuela Eulogio Del Pino. Ecco, voi direte, ma questo accordo, anzi devo dire lo hanno detto anche gli analisti, questo accordo prevede soltanto il congelamento della produzione, non la diminuzione della produzione. È vero, in effetti l'idea è che ci sia comunque un eccesso di produzione, però quello che è successo è che c'è stato un passo in avanti dal punto di vista politico, perché l'Arabia Saudita finora rifiutava nel modo più assoluto di sedersi al tavolo delle trattative per trovare un qualunque accordo. E perché? Perché dal punto di vista dell'Arabia Saudita c'è un contesto geopolitico importante, c'è da una parte la necessità di abbassare i prezzi del greggio per mettere fuori mercato i produttori americani di shale gas e shale oil, e dall'altra anche di mettere fuori mercato l'Iran, che si sta riproponendo col suo greggio ai mercati internazionali grazie all'eliminazione delle sanzioni dopo l'accordo con gli Stati Uniti e con altri paesi membri del gruppo di contatto. Ecco, questo è il passo in avanti psicologico, perché una volta trovato un accordo su cui dialogare, gli ottimisti, e questo riflette poi quello che è successo in borsa, dicono questi dialogano, e dunque su questa volatilità estrema del petrolio, del prezzo del greggio, che ha avuto un'influenza immediata sui prezzi di borsa, si troverà una qualche forma di accordo. I pessimisti dicono questa è una foglia di fico, in realtà si decide di lasciare la produzione invariata e dunque questo non aiuta. Nel frattempo il prezzo del greggio in chiusura di giornata è diminuito dell'1,34%, ma è diminuito a quota $29.04. Allora, qual è il punto qui? Il punto è che occorre trovare un parametro di stabilità. Se in effetti il prezzo si assesta, diciamo, su quota 29, 30, 31 dollari, magari 32 dollari, ecco, l'importante è avere un prezzo di riferimento stabile. Se continueremo ad avere delle volatilità del 5, 7, 8% con un prezzo che cale magari a 26, 27 dollari, poi balza a 32, ecco, quello diventa davvero un problema. Dunque siamo in un momento abbastanza delicato per l'equilibrio psicologico del mercato, degli operatori finanziari, degli operatori bancari, perché sembrava che l'economia e la finanza fossero un po' allo sbando ed ecco che basta il messaggio di un accordo per restituire un minimo di serenità. Il terzo elemento che ha caratterizzato la giornata di ieri e che ha dato di nuovo un messaggio positivo, sempre improntato al dialogo, è arrivato dalla California e dal vertice ASEAN. ASEAN vuol dire Association of Southeast Asian Nations. Sentiamo. The second day of the US-ASEAN summit will focus on promoting peace, prosperity and security in the Asia Pacific. Bene, questo vertice è un vertice asiatico fondamentalmente. Ci sono 10 membri: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia, con gli Stati Uniti. Sono un gruppo di paesi che si propone come alternativa alla dominazione dei tre grandi paesi che operano sul teatro asiatico e del sud-est asiatico, cioè Cina e Giappone da una parte e India a sud. E dunque gli Stati Uniti hanno ospitato per la prima volta questo vertice qui nel loro paese, a Rancho Mirage, a Sunnyland in California, e c'è una particolarità perché a Rancho Mirage si era già incontrato Barack Obama con il presidente cinese Xi Jinping, e quindi c'è un messaggio alla Cina, un messaggio sia dal punto di vista politico, perché sappiamo che la Cina ha tendenze espansionistiche nei mari della regione, e sia dal punto di vista economico, cioè l'unità di questi paesi rappresenta di nuovo un'ancora. Si dialoga, si parla, la missione di questa associazione non soltanto politica e militare, ma è anche quella di accelerare il progresso economico e di rafforzare la stabilità della regione. Sappiamo quanto instabile sia stata la regione asiatica dopo la crisi cinese, ecco, anche su quel fronte arriva un messaggio che dovrebbe rassicurare. Purtroppo sappiamo che si vive ormai alla giornata, quella di ieri è stata una giornata positiva su tre fronti, sul fronte appunto del dialogo, della stabilità, del guardare in avanti, e quella di oggi, beh, vedremo che cosa ci racconterà la giornata di oggi, perché di questi tempi l'unica cosa che domina davvero è l'imprevedibilità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, lasciatemi riprendere qualcuna delle canzoni premiate ai Grammy Awards dell'altra sera. Adoro il country western. E dunque dedichiamo la canzone di oggi a Chris Stapleton con questa canzone Traveler, che ha vinto il miglior album di country and western. Chris Stapleton, Traveler. I'm just a traveler. Like the rubber turning on the ground, always lost and nowhere bound. I'm just a traveler on this earth, sure have my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in the dirt, 'cause I'm a traveler. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!